Benvenuti a tutti, puntata numero 24 di NBA Week. Primo turno di playoff già archiviato, secondo turno già in corso. Un primo turno piuttosto interessante, carico di promesse non mantenute da parte di apparenti sorprese che hanno avviato alcune serie in modo inaspettato per poi cedere alla lunga per molteplici cause. Ad ovest, una Golden State scioccata dalla momentanea autosospensione della panchina di Coach Kerr, di nuovo alle prese con violenti fastidi alla schiena, ha asfaltato senza troppo sforzo Portland, anche con un Durant più assente che presente causa lieve infortunio. E la Houston di Harden, ma soprattutto dei tre panchinari di D'Antoni, Lou Williams, Eric Gordon e Nene Ilario, ha mandato in ferie anticipatamente i Thunders di Russell Westbrook, mai così solo come in gara 5, che comunque sembra aver dichiarato l'intenzione di restare a OKC rinnovando l'estensione contrattuale estiva. Adesso, per la brigata del Barbone, la situazione si fa ancora più complessa perché trovano sul loro cammino niente meno che i San Antonio Spurs di Kawhi Leonard, assolutamente spaziale in un primo turno difficile contro i bipolarissimi Memphis Grizzlies. Quest'ultimi, rientrati in maniera grintosa nella serie con due vittorie casalinghe consecutive dopo aver perso le prime due gare in Texas, hanno definitivamente ceduto in gara 6 contro gli Speroni di Popovic, uscendo sconfitti per 96-103 per un 4-2 complessivo. 29 punti per Leonard e 27 di un immortale Tony Parker per San Antonio, che ha giocato un primo turno di altissimo livello. 17 anche per la Marcus Aldridge. Dall'altra parte Memphis tiene duro, perdendo però terreno nella seconda metà di partita grazie al solito Mike Conley da 26 punti, coadiuvato dai 18 di Marc Gasol. A guardare i 12 punti di Vince Carter viene da domandarsi se non potrebbero essere gli ultimi di una carriera importantissima, singolare per la storia della Lega, destinata a restare scolpita nella memoria di tutti, anche se i segnali non sembrano ancora esserci. Memphis paga un roster inferiore anche a livello di organizzazione nell'arco di una serie potenzialmente di 7 gare, dove inevitabilmente, almeno di incredibile infortunio Crolli, vince sempre la squadra più forte nel momento. Paga quindi la sua bipolarità, tanto sbandierata dal sottoscritto in questa stagione, una bipolarità che comunque ha regalato a noi spettatori due splendide partite di metà serie, in particolare la memorabile gara 4 decisa dopo un overtime da un bizzarro tiro di Marc Gasol. Sempre ad ovest, Golden State, abbiamo detto, stava attendendo la vincente della serie tra Clippers e Jazz, con l'asticella del favore del pronostico passata al lato di Utah dopo l'infortunio di Blake Griffin in casa Los Angelina, contrapposto al rientro del fondamentale Rudy Gobert in terra mormone. Gara 7 e tematiche rispettate a livello di decisività. Clippers soffrono in campo e Utah, seppur con un Gobert con problemi di falli, si portano gara e serie a casa grazie al solito Gordon Hayward, Derek Favors e Joe Johnson dalla panchina, oltre al contributo fondamentale di George Hill e stavolta di un Boris Dio da 10 punti. Notte fonda per i Clippers, che escono sconfitti 104-91. Stavolta non è la miglior partita della serie per Chris Paul, che tira male e chiude con 13 punti e 9 assist. Prova ad essere invece un fattore DeAndre Jordan con 24 punti e 17 rimbalzi, ma non è sufficiente. I Los Angelini sono attesi da un'estate di bivio, dove inevitabilmente cambieranno tante cose e probabilmente l'ossatura di una squadra che non ha saputo incidere nei playoff e che probabilmente verrà smantellata. La previsione è quella di vederli come protagonisti a livello di mercato nell'estate ventura. Staremo a vedere. Intanto, con gara 7 si chiude la carriera di un'altra leggenda dei primi anni 2000, Paul Pierce. Anche se ne avevamo tutti ampiamente celebrato le gesta in quella che è stata la sua ultima partita a Boston, è stato comunque un piacere averti visto calcare il campo, The Truth. Lo diciamo anche noi da NBA Week. Ad est invece, Cleveland ha ottenuto il massimo rendimento con il minimo sforzo, eliminando 4-0 i Pacers, pur non distaccandoli mai di troppi punti a fine gara, il che non significa che la superiorità non fosse manifesta, anzi, può essere anche sinonimo di maturità e conseguente risparmio energetico al massimo, decretando quindi probabilmente l'inizio dell'era Paul George a Los Angeles sponda Lakers, almeno questo è quello che più o meno tutti dicono in questo momento. Quindi, Cavaliers già qualificati attendevano solo il responso di una delle tante serie del primo turno iniziate in modo scioccante, quella tra Milwaukee e Toronto, che i Bucks conducevano dopo gara 1, ma che hanno finito per perdere 4-2 con il 92-89 di gara 6, partita dominata da DeRozan da una parte e dal greco Antetokounmpo dall'altra. Il primo ne mette 32, il secondo 34 con 9 rimbalzi. I Bucks rientrano sotto nel finale, ma ancora una volta dimostrano innocenza e immaturità, peraltro ampiamente giustificata sia dalla gioventù del roster, sia dal fatto che si sono comunque presentati alla postseason senza un giocatore importante come Jabari Parker infortunato. Serie potenzialmente della consacrazione per Giannis, vinta però da una Toronto apparsa assolutamente non pronta ad affrontare il presumibile LeBron furioso accompagnato dai campioni del mondo dei Cavaliers. Lowry chiude una serie caratterizzata da pessime percentuali e da un evidente recupero ancora non completo dall'infortunio che gli è occorso nella seconda metà di regular season. Ibaka è stato un fattore fondamentale per i Raptors, ma è inutile dire che l'impresa di restare in serie dopo tre partite appare così piuttosto ardua, vista la qualità dimostrata nella serie contro i Bucks rispetto alla qualità dimostrata dai Cavaliers contro gli Indiana Pacers. Altra serie sorprendente, rientrata decisamente nei ranghi di prevedibilità, è stata quella tra Celtics e Bulls. Scossi dal dramma personale del leader Isaiah Thomas, Boston ha perso le prime due gare in casa per vincere le seguenti quattro contro Chicago, orfana di un Rajon Rondo che aveva avviato i playoff in modo spaziale nelle prime due partite. La gara decisiva è dei Celtics e in modo anche abbastanza netto, 105-83 il risultato finale, con Butler e compagnia costretti a gettare la spugna piuttosto presto, anche di fronte ad una sorta di turno di riposo per Isaiah Thomas, ma ad un Avery Bradley spaziale in entrambi i lati del campo. Se in quello difensivo è considerato uno degli specialisti più efficaci della Lega, stavolta in quello offensivo che trascina la squadra, 23 punti, 9 su 12 dal campo con 3 triple e 5 rimbalzi. Incidente di percorso superato per la testa di serie della Eastern Conference, che prosegue così al secondo turno. La vincente di questa serie affronta, quindi, la risultante della sfida tra Wizards e Atlanta Hawks. Serie poco considerata a livello di appeal, ma assolutamente interessante, perché gli Hawks sono stati capaci di rientrare dopo un avvio devastante di John Wall in casa, per poi tornare a Washington e perdere gara 3. Si sa, i Wizards hanno costruito dalle partite casalinghe vinte l'exploit che li ha portati a giungere ai playoff come quarta squadra d'est, dopo un avvio di stagione a dir poco disastroso. Prevedibile che avrebbero sfruttato appieno il giocare tra le mura amiche. Invece però la gara decisiva del passaggio del turno se la vincono fuori casa ad Atlanta per 115-99. Wall ne mette 42 con 8 assist e 4 recuperi, confermandosi uno dei giocatori più in forma della postseason. Bradley Beal lo aiuta con 31 punti. A niente vale la prova spettacolare di un Paul Millsap da 31 punti, 10 rimbalzi e 7 assist. Gli Hawks non riescono a forzare gara 7 e Washington passa il turno. Archiviato quindi il primo turno dei playoff, si passa alle semifinali di conference e la cosa si fa interessante. Ad est iniziano Boston e Washington, due squadre che durante la regular season hanno dato vita a partite piuttosto intense, a tratti nervose, sicuramente cariche di agonismo. Non è da meno gara 1, dove i Wizards si fanno trovare pronti fin da subito, concludendo il primo quarto in vantaggio per 38-24. In casa Boston si manifestano i timori realizzatosi nelle prime due gare casalinghe contro Chicago, ma i Celtics rispondono subito segnando 35 punti nel secondo quarto e sfuggendo nel terzo, conducendolo 36-16. Alla fine è 123-111 per la squadra di casa. Boston chiude con quasi il 49% da 3 punti, grazie anche alla strepitosa prestazione di Joe Crowder da dietro l'arco, 6 su 8 per lui, con 24 punti totali. Isaiah Thomas gioca un'altra gara a carica di pathos, trovando la concentrazione giusta, realizzando 5 triple e chiudendo con 33 punti e 9 assist. Pedina fondamentale nello scacchiere bostoniano è indubbiamente Al Horford, che si conferma con 21 punti, 9 rimbalzi e 10 assist. A mio avviso si tratta di un giocatore dal quale rendimento può dipendere il futuro di Boston nella postseason. 18 punti anche per Avery Bradley, seppur con 7 su 20 dal campo. Ma Washington ha ovviamente i giocatori e le carte in regola per giocarsi la serie, a partire da gara 2, soprattutto considerando che può ostentare nel suo backcourt due giocatori come John Wall e Bradley Beal. Il primo non è esattamente irresistibile al tiro da dietro l'arco in gara 1, 1 su 5. Il secondo chiude però con 4 triple, rispettivamente finiscono con 20 e 27 punti, ma Wall smazza anche la bellezza di 16 assist. Occhio a lui, che già nel primo turno ha dimostrato di aver raggiunto un livello di maturità cestistica invidiabile. Che dire di questa serie, quindi? Washington è squadra che in casa ha dimostrato essere irresistibile. Boston invece ha vinto con Chicago 4 gare consecutive dopo un avvio opaco, probabilmente influenzato dal dramma personale capitato ad Isaiah Thomas. Gara 2 era probabile crocevia importante, perché considerando proprio l'attitudine dei Wizards di perdere difficilmente in casa, per Boston sarebbe stato ottimale arrivare nella capitale conducendo sul 2-0. E infatti la partita è combattutissima e si risolve solo dopo un tempo supplementare, proprio in favore di Boston, che così si trova tra le mani un potenziale match point per la prima gara esterna, perché ricordiamolo, è quasi impossibile storicamente rientrare da uno 0-3 eventuale. I Wizards partono forte in gara 2 comunque, con 42 punti nel primo quarto di gioco. Wall gioca un'altra gara strepitosa, chiudendo alla fine con 40 punti e 13 assist. Molto peggio invece Bradley Beal, che tira malissimo con 1 su 9 da 3 punti e chiude con solo 14 punti. Dall'altra parte, partita da sogno per Isaiah Thomas, il giorno del compleanno della recentemente scomparsa sorellina, chiude con 53 punti, 18 su 33 dal campo e 5 triple. Soprattutto realizza 29 punti tra quarto periodo e overtime. È letale, ben aiutato da un'altra concreta prestazione di Horford che chiude con 15 punti e 12 rimbalzi. Proprio un 2 su 2 dalla lunetta di Thomas fissa il punteggio sul 114 pari a circa 14 secondi dal termine dei regolamentari. Prima Wall e poi Bradley Beal hanno in mano il match point, ma entrambi sbagliano. Nell'overtime non c'è storia. Boston vince la partita 129 a 119, dominando l'overtime per 15 a 5. La realtà è che, a mio avviso, a questi Wizards manca almeno un giocatore per poter puntare in alto, per quanto l'innesto di Bojan Bogdanovic, seppur inutile in gara 2, non sia stato cosa da poco nel mercato di metà stagione. Credo però che servirebbe un giocatore di altro livello, di altra qualità. Io pronostico il passaggio dei Celtics, magari per 4-2, ma tanto dipende appunto dal risultato di gara 3. Potrebbe anche durare meno la serie se Boston riuscisse a vincere nella capitale, appunto, gara 3 portandosi sul 3-0, staremo a vedere. La seconda semifinale di conference è quella che vede scontrarsi i riposatissimi Cleveland Cavaliers con i Toronto Raptors, serie rematch della finale di conference dello scorso anno. Le due squadre arrivano a questo secondo turno con due stati di forma differenti. Come detto, Cleveland viene da uno sweep contro i Pacers, pur avendo vinto 4 gare ma non stravinto. LeBron James attraversa il consueto stato di trance agonistica che ne fa un giocatore a tratti capace di decidere da solo il risultato finale, ma quello che conterebbe è aver recuperato consapevolezza e forma del suo contorno, a partire da Kyrie Irving e Kevin Love, non troppo impeccabili nel primo turno, peggio il secondo del primo tra l'altro. Dall'altra parte, Toronto ha faticato non poco contro la sorpresa Milwaukee, ma come già detto ha chiuso la serie in modo convincente fuori casa, soprattutto con il miglior DeMar DeRozan auspicabile. Per loro, importante la ripresa di Kyle Lowry e fondamentale sarà l'apporto di quello che pare essere il giocatore avversario più temuto da LeBron, un Serge Ibaka che ha fatto pesare tutta la sua tecnica e tutta la sua esperienza nel primo turno, a tratti fungendo da faro per una squadra apparsa spaesata più di una volta. I Raptors saranno sicuramente di altra categoria rispetto il già visto, non fosse altro che la sfida con la contender riconosciuta come più forte ad est, naturalmente favorisce una spinta a livello sia di concentrazione che di determinazione. Malgrado questo, e l'ho predetto prima di gara 1, pronostico i Cavaliers vincenti in 5 partite. Infatti, in gara 1 Cleveland arriva ai blocchi di partenza forte di una settimana di riposo, come già detto, e si vede. A livello di energia parte più che fortissimo. LeBron sembra assolutamente rinvigorito dalla pausa e non è che ne avesse bisogno. E parte rapidissimo, chiudendo subito con una schiacciata pazzesca in contropiede su assist battuto sul tabellone da parte di Kyrie Irving. Passa qualche minuto, secondo sussulto. Iman Shumpert penetra in aria e schiaccia fragorosamente in faccia tutta la difesa di Toronto. L'avvio non fa ben sperare. Il primo quarto si chiude 30-18 per i Cavaliers. Da qui in poi i Raptors timidamente ci provano, ma i Cavs sono di un altro pianeta, soprattutto in questa partita. Nel terzo quarto avviano l'allungo a suon di tiri da tre per ampliare il vantaggio della sicurezza grazie agli ultimi affondi di Irving e James intorno alla metà del quarto periodo. Finisce 116-105 e Cleveland si prende gara 1 di prepotenza e concretezza. 35 punti e 10 rimbalzi per LeBron James, 24 punti e 10 assist per Kyrie Irving, 18 punti e 9 rimbalzi per Kevin Love, 11 punti e 14 rimbalzi per Tristan Thompson. Dall'altra parte ci prova a trascinare Toronto un Lowry da 20 punti e 11 assist, aiutato da un Serge Ibaka da 3 su 3 da dietro l'arco, 15 punti e 6 rimbalzi. DeRozan ne mette 19, ma non bastano assolutamente. Soprattutto la partita non si legge dalle già sufficientemente sbilanciate statistiche di squadra, piuttosto dal livello energetico espresso in campo dalle due squadre. Era comunque prevedibile un avvio violento di Cleveland in casa. Vediamo che succederà in gara 2. Al momento trasmettiamo come al solito il mercoledì pomeriggio, quindi non sappiamo quello che succede nel frattempo dalla nostra registrazione al momento in cui voi ascolterete. Io pronostico una Cleveland che va a Toronto forte di un 2-0 casalingo. I Raptors che magari rientrano in gara 3 per soccombere poi in una gara 4 anche probabilmente combattuta, quindi chiusura in anticipo con gara 5. Vediamo se avrò ragione, pronostico quindi Cleveland in 5 partite. Ad ovest, gli Utah Jazz, reduci da 7 partite contro i Clippers, affrontano la corazzata Golden State, che però vive il suo presente con una serie di incognite. La prima è relativa alla guida dalla panchina della squadra, come già detto, con uno Steve Kerr che al momento ha abdicato a causa dei suoi noti e copiosi problemi alla schiena. Questo non sarà ovviamente determinante, perché l'impostazione e il gioco degli Warriors sarà quello sul quale Kerr ha lavorato fin dall'inizio dell'anno. ma i playoff sono caratterizzati comunque da potenziali partite aperte fino all'ultimo secondo, dove le scelte in diretta di un allenatore possono influire notevolmente. Vedremo se la mancanza di Kerr sarà un limite da questo punto di vista. La seconda incognita è relativa a un Kevin Durant che nel primo turno ha dovuto saltare due partite per un problema fisico. Quanto è fragile Kevin Durant? Quanto un Kevin Durant a mezzo servizio può dare alla squadra? Queste sono le domande al momento. Indubbiamente però lo stato di forma di Curry potrebbe essere sufficiente a garantire un passaggio del turno sereno in previsione. Per i Jazz farà la differenza semmai Rudy Gobert, considerando i potenziali problemi sotto canestro a livello di rim protector degli Warriors, che però sembrano aver trovato nel primo turno la soluzione ottimale, gestendo Pasciuglia e un rinnovato e ritrovato JaVale McGee come se fossero un centro a due teste. Gli ottimi Gordon Hayward, George Hill, Joe Johnson e Derek Favors possono provare a imporsi almeno in un singolo episodio, ma sulla carta la disparità di talento è netta. Pronostico prima di gara 1, da parte mia, Golden State Warriors, vincenti ovviamente, al massimo in 5 partite. Gara 1 mantiene questa lettura. Warriors se la prendono apparentemente senza fatica. I Jazz hanno 4 su 15 dal campo per Gordon Hayward e 4 su 10 per un Joe Johnson che questa volta parte in quintetto. Pur non perdendo teoricamente mai il contatto dell'avversario, la partita scivola via come se fosse già decisa. Il controllo sulla partita per Golden State è visibile. Curry non gioca l'ultimo quarto, ma chiude comunque con 22 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Draymond Green con 17 punti, 8 rimbalzi, 5 assist e 2 recuperi e le zampate di fatto decisive nell'ultimo quarto. Seppur con un Durant non brillante, con 7 su 17 al tiro, Golden State se la porta quindi a casa per 106-94, tranquillamente, senza forzare. Chiudiamo con la super serie tra San Antonio Spurs e Houston Rockets. Lo scorso anno furono gli Oklahoma City Thunders a mandare a casa sorprendentemente gli Spurs dopo il secondo turno. Lo fecero sfruttando la forma di un Durant che oggi gioca nella baia e l'esplosività di un Russell Westbrook coadiuvato da un ottimo Steven Adams. Quest'anno Houston può ripetere un upset simile? Questa è la domanda. James Harden è il trascinatore conclamato di una squadra che si augura di trovarlo più preciso e determinante di quanto non sia apparso nella totalità del primo turno contro KC, seppur sufficiente per portarselo a casa senza troppo spreco di energie. Il trittico di panchinari dei Rockets sarà comunque fondamentale, in particolare se le percentuali da dietro l'arco di Lou Williams ed Eric Gordon saranno alte. Dall'altra parte però gli Spurs hanno un Kawhi Leonard con un altro livello di consapevolezza e gioco rispetto al già ottimo giocatore che scese in campo lo scorso anno. È importante un contributo diverso però da giocatori che sono lì per incidere in questi momenti e che nel primo turno hanno fatto ben poco, come Paul Gasol e Manu Ginobili. Il tempo e le partite per farlo ci sono, anche perché il mio pronostico per questa serie prima di gara 1 è che la vincitrice la scopriremo solo alla settima gara. Sarà interessante anche la sfida tattica tra il leggendario Greg Popovich e il potenziale Coach of the Year Mike D'Antoni. Starà proprio a quest'ultimo preparare i suoi al meglio per provare a giocarsi una bella nella quale può succedere di tutto. Io vado comunque con gli Spurs perché Kawhi Leonard è veramente in una forma strepitosa e l'avere al fianco un Aldridge essenziale e prezioso anche se si accende a tratti e un vecchio volpone come Tony Parker farà la differenza anche a prescindere dalla profondità del roster a disposizione. Dovessero però arrivarsi a giocarsi davvero gara 7, occhio all'upset potenziale dei Rockets. Una squadra con Harden contornato da tiratori di quel livello in una singola serata magica è potenzialmente tra le più devastanti della Lega. Ovviamente sarà decisiva la difesa e se dalla parte di San Antonio conosciamo i valori dei giocatori a disposizione nella metà campo meno appariscente, Houston è solita peccare proprio in questo. Upset o sorpresa che dir si voglia, si manifesta subito un risultato sorprendente in gara 1, giocata in casa degli Spurs. 126-99 per i ragazzi di D'Antoni, che chiudono la prima metà con un vantaggio di 30 punti e la partita con 22 su 50 dietro l'arco di 3 punti. 6 giocatori inoltre in doppia cifra, tra i quali spicca la prestazione di un super Clint Capela, con 8 su 10 dal campo, 13 rimbalzi e 20 punti. Harden gioca per la squadra, gioca da playmaker con 14 assist, 4 recuperi e anche 20 punti finali. Grande prova anche per Trevor Ariza, con 23 punti e 5 su 10 da 3. 4 triple anche per Ryan Anderson, 3 triple per Gordon, 2 per Lou Williams, 2 per Patrick Beverley. Insomma, i Rockets offensivamente subito pronti, subito pungenti, subito complicati da affrontare. Dall'altra parte, San Antonio chiude con un pessimo 36% dal campo, che la dice lunga e giustifica il risultato finale. La percentuale dietro l'arco dei 3 punti per loro è del 31%, con 9 su 29. Kawhi Leonard prova a tenere a galla i suoi in una auspicata rimonta in avvio di seconda metà di partita, che però non si concretizza. Anzi, Ad un certo punto il vantaggio di Houston è un clamoroso 73-39 in avvio di terzo quarto. Oltre all'attacco strepitoso dei Rockets, impressiona non poco una difesa molto attenta a limitare le penetrazioni della squadra di casa, seppur il leader conclamato Harden non brilli sicuramente in questo fondamentale. Popovich getta la spugna alla fine del terzo quarto, lasciandoci curiosi di capire quali saranno gli accorgimenti essenziali che dovrà introdurre al gioco di squadra per gara 2. Una partita fondamentale per gli Spurs che non possono assolutamente permettersi di sprecare entrambe le partite casalinghe perdendo il vantaggio campo. Come ho letto nella pagina dell'amico NBA Revival Zone su Facebook, se c'è una squadra che può mettere in seria difficoltà San Antonio, quella è indubbiamente Houston. Ma se c'è una squadra che può farlo con Golden State in seguito, quella è indubbiamente San Antonio. Si prospetta quindi un proseguo di playoffs molto interessante nella Western Conference. Intanto, stanotte si giocherà la gara 2 proprio tra Spurs e Rockets e tra Cleveland e Toronto. Come al solito noi, registrando di mercoledì pomeriggio, non siamo a conoscenza dei risultati che voi che ci ascoltate saprete già. Tuttavia ho lasciato indicazioni piuttosto chiare sui miei pronostici riguardo a questo secondo turno. Vedremo in settimana prossima se avrò avuto ragione o meno. Vi ringrazio ancora per l'ascolto. Anche per questa settimana continueremo a seguire Playoff su Radio Big World con NBA Week. It's over. It's over.